24 Mattino. Bentornati Luca Telese, Oscar Giannino, il momento dei cani e dei gatti, presto ospite Giorgia Meloni per discutere le conseguenze di questo voto. La Meloni ha minacciato uno strappo, i numeri per intervenire 800240024, il numero dell'SMS 349-238-6666, il numero per la segreteria telefonica per i vostri messaggi di testimonianza più impegnativi 0230224492. Già vi dico che arrivano tanti messaggi polemici sulla questione dell'assistenza del permesso retribuito riconosciuto alla Corte di Cassazione a una dipendente che aveva chiesto il permesso retribuito per poter assistere il suo cane 2 giorni. Allora, per leggere 2 pareri interessanti, uno di voi mi dice: ah, ma e quindi per un animale pago le tasse, posso avere detrazioni o la responsabilità legale, posso portarlo in ospedale, ma se sta male, sti cazzi, è solo un animale. Però io faccio l'esempio di persone, Alessandra da Roma: per assistere mia madre o mio figlio o mio marito non ho diritto a permessi retribuiti, solo 3 giorni l'anno in caso di morte o di malattia gravissima. Per il funerale di mio suocero ho dovuto prendere le ferie. Oscar! Eccolo! Oscar, però sta diventando veramente molto imbarazzante. Ora vedo solo un filo. Vedo solo un filo sul fumo. Tavolo. Ma è quando si sparisce, cioè, il pensiero sul furo si manifesta del attraverso dei colpi a sorpresa, non si manifesta guardandolo. Cosa vuoi? La teofania, il fedele che la vuole è un rozzo. Dio si crede senza doverlo vedere. Mi hai già declassato a tuo cultore. Ma no, dai, sto scherzando. Giorgia Meloni al telefono, buongiorno. Buongiorno. Aia, è caduta la linea, è il regime che vigila. Ma però tu, allora, quindi noi facciamo la parte, io sarei il gatto e tu il cane. Quindi sì. Il problema è, se ti ammali tu, a me me lo danno al congedo, secondo te? Per assistermi? Quindi ti candidi ad assistermi, sono contento. Beh, questo siamo fratelli, che vuol dire, possiamo recitare in pubblico la parte, sì. Però il problema è che non me lo danno, perché questa è un'azienda ma io privata, vorrei che tu perché lo si dà solo ai dipendenti pubblici per di più questa roba. Ecco, questa è l'altra cosa. Allora, di nuovo, Giorgia Meloni, buongiorno. Buongiorno a voi. Proprio per dare i titoli ai giornali, perché ieri è serpeggiato qua e là nelle cronache dei giornali di oggi c'è il suo dissenso per questa legge. Addirittura, partiamo subito dalla questione capitale, Fratelli d'Italia non è più sicura al 100% di essere nella coalizione di centrodestra dopo questo voto, ho capito bene? Ma no, chiaramente, insomma, io ho chiesto un chiarimento alla coalizione, che è una cosa diversa, insomma, da stare fuori alla coalizione, però mi pare il caso che ci si facciano 2 chiacchiere, perché a me non è più molto chiaro. Non mi sono chiare alcune scelte che sono state fatte. Oggettivamente, insomma, a monte di tutta questa vicenda della legge elettorale, che poi sembra sempre una cosa molto tecnica, ma purtroppo incide in maniera importantissima sul futuro dell'Italia, c'è il fatto che questa legge ci consegnerà, voglio dire, 98 casi su 100, un altro governo di inciucio. Cioè, proviamo a spiegarlo morto. Proprio al nostro ascoltatore meno erudito di sistemi elettorali. Allora, faccio uno sforzo di chiarezza. Sì, è molto semplice. In realtà questa è una legge praticamente proporzionale. Proporzionale significa che ogni partito prende una percentuale di parlamentari che è, diciamo, uguale ai voti che ha preso sul territorio. Ora, che succede? L'Italia è un sistema nel quale ci sono 3 poli molto forti che più o meno si equivalgono: centrodestra, centrosinistra, Movimento 5 Stelle. Quindi se tu non fai una legge con un cosiddetto premio di maggioranza, cioè una norma che dica che chi arriva primo tra questi 3 poli gli viene data la maggioranza in Parlamento per fare un governo che comunque sia fatto sulla base di una scelta popolare, quindi di un programma che si è presentato insieme alle elezioni, insomma una coalizione che non si è insultata fino al giorno prima in campagna elettorale. Se tu non metti un premio di maggioranza, otterrai che nessuno vince e che quindi per avere un governo dovrai fare una maggioranza nel palazzo, prendendo alcuni che si sono insultati in campagna elettorale, che hanno preso i voti dicendo che avrebbero fatto cose diametralmente opposte, e mettendoli al governo insieme. È esattamente il gioco di il PD al governo con Alfano, che era stato eletto nel centrodestra. Quindi addirittura la legge è costruita anche per produrre questo esito? Le spiego perché. La legge è costruita per questo, perché loro fanno il gioco che c'è una parte proporzionale, diciamo così, e una parte di collegi uninominali. Collegio uninominale significa ogni polo ne mette uno e chi vince ha vinto, gli altri hanno perso. E secondo loro questo ti garantisce un premio di maggioranza, ma essendo avendo i collegi molto pochi, tu non ce la fai mai sono a mettere 230 un premio di maggioranza. In pratica, facendo gli studi che non sono stati fatti da me, ma da gente più autorevole, si dice che queste persone dicono che per vincere uno dei tre poli, cioè per vincere il centrodestra, per intenderci, che come sapete è dato per vincente in tutti i sondaggi, noi per vincere con questa legge dovremmo vincere il 40, dovremmo fare il 40% a livello sulla nazionale, quota proporzionale. Sulla quota proporzionale, e nello stesso tempo vincere nel 70% dei collegi uninominali. Ma di che stiamo parlando, ragazzi? Mo, per però non è impossibile se siete uniti, per questo mi interessa che cosa intende lei. Per... Aspetti, le dico questo, è uscito Cicchitto, una vecchia volpe, dall'aula ieri, appena votato, ha detto con questa legge e queste condizioni il centrodestra può vincere a patto che sia unito. Si riferiva a lei, Meloni, cioè che cosa intende per voglio una verifica? Non sia politichese su questo. No, non sono politichese, cos'è una verifica? La verità, se lei pretende che io le dica no, che esco dalla coalizione... No, non no, sono no. D'accordo su come hanno votato la legge elettorale, non glielo dirò proprio no, perché io sono una che non... vuole vincere. No, no, e allora vincere. Cosa vuole? Cosa devono darle i suoi alleati per recuperare un rapporto sereno? Cosa, non è questione di che cosa devono darmi. Ormai purtroppo quello che potevano darmi non me l'hanno dato, perché, ripeto, noi siamo avvantaggiati su tutti i sondaggi, quindi quello che abbiamo fatto, quello che hanno fatto, che ha fatto chi ha votato questa legge, è stato alzare l'asticella per consentire a qualcuno, e quindi anche a noi stessi, di vincere. Dopodiché io non è che voto contro la legge perché è più difficile per noi vincere, voto contro la legge perché nessuno può vincere, quindi è una legge fatta contro gli interessi degli italiani, e le leggi elettorali non si fanno negli interessi dei partiti che la scrivono, ma negli interessi dei cittadini. Dopodiché andrò a parlare con gli altri per capire perché Oscar. Loro hanno sostenuto questa legge, perché finora non sono riuscito a capirlo. Meloni, senta, io le faccio una domanda da cattivo. Lei mi dica quanto, se sono troppo cattivo, se sbaglio del tutto. Se è troppo cattivo, la ritratta? No, cioè, no, è chiaro questo. Cioè, io ho come un'impressione. Conosciamo Berlusconi, lei da quando era piccolissima, praticamente andava all'elementare. No, piccolissima, è... piccolissima, no, è giovanissima, Giorgia Meloni, è giovanissima, giovanissima. Ero maggiorenne. Io sono vecchio, invece. Allora, la differenza è questa. L'accordo politico, perché è un accordo politico quello tra Renzi e Berlusconi, è inutile, non parliamo di convergenza tecnica, è un accordo politico, cioè quello che ha detto Giorgia Meloni, questa legge nasce da due che si mettono d'accordo, uno perché deve ridurre i suoi problemi nel suo partito e farne uno in cui si sta solo in adorazione, l'altro ha un problema, era dato per morto, risuscita, e il suo problema è: può governare lui? No. Deve risolvere un problema con un alleato un po' riottoso, che non è Giorgia Meloni, ma è l'altro. Sì, e c'ha soprattutto un problema, come sempre, che riguarda le sue aziende. Io temo che la vera intesa politica, risolviamo entrambi i nostri problemi, che non sono quelli di governare, per il momento nessuno dei due ha questo interesse. E mettiamoci d'accordo, se tu fai dare una mano pubblica perché in Telecom Bolloré non sia un problema e lo spingete a fare la pace con me in Mediaset, a fare una company europea che da solo non posso fare, ce n'è per tutti, ed è lo sfondo di business di questo accordo che Orfini ci ha descritto nei particolari anche in pubblico, quindi non mi invento niente. In cosa sbaglio? È cattiva questa ricostruzione, Meloni? Beh, molto cattiva la ricostruzione, dopodiché è qualcosa che nessuno sa per certo, voglio dire. Io chiaramente spero che le cose non stiano come lei dice. Ci sono oggettivamente delle scelte che sono state fatte, anche, ripeto, su questa legge elettorale, sulle altre proposte, sulle trattative che comunque ci sono state, sui sostegni ad altri governi, che a me hanno fatto riflettere oggettivamente. Ah, ecco. Però poi io... il punto poi, cioè, diciamo, non è una gran novità che i due capi di quei partiti siano molto diversi, no, tra quello che dicono e quello che fanno in concreto. Beh, non è una novità che abbiano poi alla fine una capacità di trovare delle sintesi, lo hanno già fatto, voglio dire, ecco. Per cui io non escludo che possa accadere in futuro. Se io escludessi la possibilità che questo accada, oggettivamente non potrei parlare della possibilità di un nuovo governo Letta nella prossima legislatura, che invece è una possibilità che secondo me esiste, nel senso che esiste dopo questa legge, esiste anche la possibilità di un governo Letta, è questo quello è il titolo. Che le sto dicendo le sto dicendo da tempo ormai, cioè il problema di questa legge è che costruisce una realtà per la quale la sera delle elezioni non avrà vinto nessuno, E quindi il giorno dopo ci sarà qualcuno che dovrà responsabilmente mettersi d'accordo per fare un governo. E quindi noi ci troveremo un altro governo Letta, un altro governo... Un governo Gian Enrico Letta, però, un governo Gian Enrico Letta. Vabbè, questo non lo sappiamo, con un Letta qualcosa. Ma questo no, non lo sappiamo, però un governo fatto con gente di sinistra e con gente di centrodestra. Questa è la verità. 800-24... 0024 per intervenire, tanti messaggi. C'è una possibilità, secondo me, che questo non accada, e quella possibilità è: compattiamo il centrodestra, sì, cerchiamo di evitare che anche le ipotesi, diciamo, qui descritte non siano reali o realizzabili, facciamo vincere il centrodestra, e all'interno del centrodestra mi permetto di dire: se non volete l'inciucio, votate Fratelli d'Italia. Il voto anti-inciucio non lo fa. Allora, fra i motivi per cui ieri io e Oscar, con punti di vista diversi, però avevamo delle riserve su questa legge, il più importante mi sembra quello di chi ha in mano la rappresentanza, cioè chi decide gli eletti. Quindi in una legge in cui tutte le liste sono bloccate, tutti i candidati sono decisi dalla stessa persona e fa le liste bloccate che è il candidato dei partiti, in cui i collegi nominali sono un po' tarocchi perché tu puoi correre anche in altri quattro collegi, e addirittura se sei eletto in più collegi passi in quello in cui prendi meno voti, siamo alla follia. Cioè qualcuno dovrà dire in campagna elettorale: se mi volete in Parlamento non votatemi. E cioè, questa io non riesco a... Com'è nata questa cosa secondo lei, onorevole Guardi, Meloni? Io ieri nel mio intervento alla Camera l'ho chiamata alla democrazia inutile. Cioè questa è una legge per dire alla gente: andate a votare, tanto non potete decidere niente. Questa è una legge in forza della quale tu non puoi votare, alla fine non voti la coalizione, perché come abbiamo spiegato rischi il giorno dopo che chi ha perso te lo ritrovi al governo, perché il governo si fa nel palazzo e non lo fanno i cittadini. Non voti i parlamentari, perché dopo che sono venuti tutti a stracciarsi le vesti in televisione perché la vergogna delle liste bloccate, bisogna fare eleggere i parlamentari, un parlamento illegittimo, il porcellum fa schifo, eccetera, si sono messi d'accordo tutti sulle liste bloccate. E perché? Perché è ovvio che se tu hai dei parlamentari nominati da te e non eletti dai cittadini, quei parlamentari rispondono a te e non ai cittadini. E se i parlamentari non rispondono ai cittadini e non devono, diciamo, dare conto degli impegni che si sono presi in campagna elettorale, chiaramente potranno più facilmente tradire quegli impegni quando si tratta di fare l'inciucio. Ha capito? Dopodiché, la cosa veramente che supera tutto è che tu puoi anche non decidere il partito. Nel senso che questa legge istituzionalizza le liste civetta. Le liste civetta sono uno di questi marchingegni inventati dalla politica di palazzo, perché sono praticamente delle liste, in questo caso istituzionalizzate, che servono solamente a truffare il tuo voto. Cioè tu voti il partito degli animali, voti il partito degli animali e ti ritrovi che con il voto che hai dato al partito degli animali, il partito degli animali non elegge nessuno e il tuo voto viene conteggiato per eleggere qualcuno di che ne so, di Forza Italia. Lo dicevamo ieri. Senta, ma se io avessi voluto votare Forza Italia avrei votato Forza prima Italia, che ci lasci. È disposta a sentire tre righe che le potrebbero rovinare la giornata? Perché il giornale le ha dato una pagella. Ho superato la domanda pagella. Di Oscar Giannino, la posso fare anche con la giornata. No, ma senta questa pagella. Meloni, 4. Ingenua pollastrella, urla e strepita, ma così si farà ancora più male. È un pronostico, un giudizio, un epitafio? Che no, cosa una risponde? Speranza di alcuni, ma non credo che le cose andranno così. E quando sono così, diciamo, quando mi insultano, vuol dire che proprio così male non sto facendo, no? Perché bisogna insultare qualcuno quando ti imbarazza quello che dice. Dopodiché va bene tutto, per carità, il pronostico non credo che si avvererà. Io ho ottimi riscontri del lavoro di Fratelli d'Italia, mi pare che siamo una realtà più che in crescita e lo sanno tutti. Dopodiché questo, ringraziando Dio, non lo decide il giornale ma lo decideranno gli italiani. Al giornale voglio dire solamente che mi infastidisce molto questo fatto che quando si parla di una donna, ancorché di una donna che fa politica da 25 anni, ancorché di una donna che ha dimostrato di aver raggiunto i suoi obiettivi con il suo lavoro e non per il favore di qualcuno, la si debba definire pollastrella. Ecco, questo lo trovo tipico di un maschilismo peloso e ridicolo, che non vuole fare i conti con il fatto che le donne delle volte possono essere molto più coraggiose degli uomini. 8:31, salutiamo Giorgia Meloni, pubblicità, e dopo torniamo sul tema fortissimo che ha lanciato qui ieri Oscar, il tema della morte di un uomo che ha scelto di morire. Ma fammi ridere, fammi ridere, caro ascoltatore, Simone, fammi ridere. State ascoltando un programma offerto da... Fidelity International, soluzioni di investimento per costruire un futuro migliore. Mattino. Rieccoci, cani e gatti, discutendo di tante cose, dalla moda, perché è importante nel costume. Vi citavo l'apertura del Sole 24 Ore su Gucci, un grande marchio che mette fine alle pellicce, del permesso per curare gli animali, su cui c'è tanta polemica da parte vostra, della legge elettorale. Qui la Meloni ha suscitato un po' di ferio, pro, contro, parlano tutti. Vuole intervenire su questo Gianfranco da Riccione, sei in linea, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Io volevo dire in maniera molto concisa, ho sentito tante persone e giornalmente sento persone che sono convinte che l'ideologia politica non esiste più, ma si guarda solamente il personaggio politico. Ho votato sempre per la sinistra come tanti miei amici, ma abbiamo deciso di dare il voto a tutti alla Meloni, che ci appare la persona più trasparente addirittura in un pool. Ma quanti siete? Cioè, decidete insieme chi votare? Questa è poetica, guardi, cioè vi riunite tipo alcolisti anonimi, chi votiamo? Così è andato? No, se ne parla, siamo un po' tutti concordi nelle idee. Ho capito. Nell'idea di dare il voto alla persona più seria che in questo momento. Ma è sicuro che lei non è di Fratelli d'Italia? La signora Meloni, merito alla Meloni. Ma cosa votava lei prima? Per aiutarla, prego. Cosa votava lei prima? Devo fare un test, se no sembra magari sempre lei la sinistra, è uno di Fratelli d'Italia. Dal PC al PD, sempre la sinistra. Bene, Marco da Mantova, grazie. Sì, ciao, buongiorno. Buongiorno, bella, ciao. È che dalla sinistra passa la Meloni. E la Meloni è 30 anni che è in politica, l'ha appena detto lei, vabbè, fantastico. Io penso che l'unica Il mondo soluzione... è bello perché è vario, Marco. Sì, lei sì, chi vota? Io voto 5 Stelle, fuori discussione, guardi, e mi vergognerei come un cane a votare chiunque altro. Io ho votato, purtroppo ho votato Lega, ho votato Berlusconi, di questo mi vergogno più di tutti, ho votato Alleanza Nazionale, ho votato Forza Nuova. E ora 5 Stelle, ha votato ora, Forza Nuova e critica. Ho votato anche Forza Nuova, e critica quello che vota la Meloni. Ma perché ero un ragazzo, ovviamente. Comunque, l'unica soluzione è andarsene via da questo paese. Non c'è speranza per noi. Questi si metterebbero d'accordo anche con il cartello colombiano della droga per rimanere attaccato a quella poltrona. Non ci fanno sobrio, più votare. Questa domani la mettiamo nel fritto misto, Marco. E il tuo grido di dolore è comunque una testimonianza. Stefano da Padova, ciao. Ciao. Mi piace quello che ha detto il mio predecessore di scappare dall'Italia. Ma che vi siete messi d'accordo? Che come ognuno... italiano non so che cosa farmene della prospettiva di un governo incolore, scialbo, che chiamano di larghe intese, che almeno in Germania si chiama Grosse Koalition e che ha una sua enorme dignità. E quindi io mi domando davvero con la Meloni, che senso ha andare a votare? Ha sempre senso, Oscar. Ha sempre senso, sì, però mica tanto. Scusa un secondo, se uno non si riconosce, non è che uno deve cercare l'ottimo nell'offerta, l'ottimo non c'è mai in questa vita, forse nell'altra per chi ci crede, ma insomma non c'è. Però è anche vero che se nel totale dell'offerta politica uno non si ritrova nemmeno a distanza di anni luce da quello che vorrebbe, beh, io non sono di quelli che dicono. Io pure dico che il tasso di partecipazione è importante. Però è anche vero che non bisogna ragionare sul minore dei mali. Ma non se il minore è un dei mali è anni luce. Oscar, cioè, voglio dire, questa visto. Legge elettorale conferma. Poi, naturalmente, crolla, ci possono dire che è qualunquismo dirlo. A me fanno schifo i colleghi inginocchiati, quelli che fanno pensosi editoriali dicendo: ma comunque una legge elettorale è pur sempre meglio che niente. Ragazzi, cioè, il meglio che niente, cioè il consultellum, è stato fatto restare lì fino all'ultimo mese, perché solo all'ultimo mese si dava il colpo di questo, che è un accordo politico con addendi di interessi, è un accordo politico grande come una casa, e dice: noi abbiamo problemi separati in casa nostra, Oscar, diversi, facciamo d'accordo. Un accordo per non far scegliere ma niente se tu non agli lo italiani. Vuoi, voti contro. Dai. Se tu non lo vuoi, voti contro, convinci gli amici di quello di cui sei convinto, come ha fatto quel nostro ascoltatore, e muovi ipotizza le che montagne. Chi è davvero contro, la muovi non riesce montagne. A essere contro, la Meloni critica, ma si allerà con Berlusconi, lo sappiamo perfettamente che è così. Alla Meloni, io anni fa feci un discorso dicendo devi avere il fegato di dire punto a capo. E lei disse, beh, come si fa? Infatti, però è così. Porterà i suoi parlamentari e se sarà brava peseranno, se sarà cattiva non peseranno, se c'è la democrazia. Ma l'accordo, e tutti chi la possono fa? Ma contribuire. Certo, c'è la democrazia, però voglio dire, non io siamo continuo nella a preferire, banane, continuo non siamo, a nella siamo in una repubblica molto siamo bananera. In una repubblica sovrana in cui se tu non voti uno, quello crolla, così come è sempre accaduto. Oscar, lo abbiamo raccontato in questi anni. Se il tuo sistema elettorale è fatto apposta perché tu non possa ragionevolmente dare vita a una coalizione di governo, sai cos'è? Il tuo voto è molto neutralizzato, questo è il punto. Non sono convinto, però. Ma come non sei convinto? Hanno idee. Le mani libere per fare quello che vogliono dopo, è costruita apposta. Ma devono prendere i voti, devono tenere i consensi. Devono aspettiamo la Sicilia, devono lo scriviamo, aspettiamo Dai, di vedere su, cosa succede in Sicilia. Ieri sera eri ragionevolmente convinto che non ci fossero i voti, come hai visto i voti li hanno avuti? Io ero convinto che non ci fossero i voti. No, si ragionava, dice, ma forse c'è una possibilità. E io ho detto, spero. Questi sono fermi. Infatti, mica abbiamo la palla di vetro. L'ottimismo della volontà e il pessimismo della ragione. Io come dico diceva solo che l'ipocrisia del dire, ma è comunque un passo avanti, perché criticate, non è vero. È perché facciamo finta di non vedere che c'è una cupola di accordisti che domina e detta la politica italiana. Questo è il punto ma di se fondo. Non ti piace, fosse vero, se non ti piace quella cupola può cadere perché si fonda solo sui voti. Fortunato da Bergamo. Sì, buongiorno. Si basa sui voti, ma penso che il prossimo partito che vincerà sarà l'astensionismo. Forse qualcuno lo ha sottovalutato questo e le ultime elezioni danno un'indicazione al ribasso. La partecipazione al voto è un segno non violento che il popolo non è d'accordo con questo tipo di politica. Non sei d'accordo? Puoi votare 5 Stelle, puoi votare Sinistra, puoi votare Meloni. Sei d'accordo? Puoi votare Forza Italia. Non sei d'accordo? Non puoi proprio votare Salvini. Sei d'accordo? Puoi votare PD. È la bellezza della democrazia. Beh, è una democrazia. La bellezza della democrazia ha regole truccate. Per cui se voto la sinistra so già che tanto non è che ci sarà il governo della sinistra. Se voto 5 Stelle è fatto apposta nella parte maggioritaria questa legge, per cui per un partito che non vuole finte coalizioni e liste civetta, io so che quel partito al governo non ci va. Quindi come vedi, Luca, io ovviamente il senso del tuo discorso è ovvio che non mi sfugge, è molto importante. Cioè comunque viva il voto, sono d'accordo, però è un voto raggirato. Ci sarà una ragione per cui questi due pezzi di politica fondamentali non ci hanno mai dato una legge elettorale di diverso modello, poteva essere proporzionale, maggiorità a doppio turno, un turno, un nominale secco, che negli altri grandi paesi europei fanno fare i governi. Da noi, perché poi mi dicono, neanche in Germania c'è il governo, e in Germania si sa che cancellerà la Merkel, si sa un minuto dopo le elezioni. Ecco, da noi non sarà così. E hanno riempito pagine, milioni di ore in televisione, alla radio, a dirci il contrario per 20 anni. E non una volta hanno fatto una legge elettorale così. Perché? Perché il loro obiettivo è evitarlo, quello che dici tu. Non è vero che vogliono la scelta da parte di una maggioranza di italiani, di una maggioranza coesa per governare con un presidente del Consiglio indicato. Questo è il punto, perché quando lo hanno avuto, lo hanno sempre mandato via. La sinistra, ti ricordi? Te la ricordi la legislatura in cui ci sono stati 3 diversi premier? La ricordo tutto. No, in cui c'è stato Prodi, sì, poi Amato, il quarto era candidato Rutelli alle elezioni. Ecco, è sempre stato così. 800 24 00 24, ma già tante telefonate. Andrea da Firenze, prendi la parola, salutaci e mandiamo la pubblicità, così l'Italia resta sospesa per capire cosa vuoi dire. Buongiorno. Andrea. Bene, pubblicità e ritorniamo con te. Patria, traditori, ladri. Mattino. Cani e gatti, Luca Terese, Oscar Giannino, Andrea da Firenze, vai! Buongiorno, non solo non esiste più spazio nella politica per l'idealità, ma quelli che una volta si chiamavano lacchè, io oggi li voglio definire servi ossequiosi, sono pronti a semplicemente prostituirsi in nome della fedeltà, perché la fedeltà e non il merito, non le capacità, sono l'unica strada per ottenere candidature in vista di queste politiche. E questa legge elettorale ha chiuso la tomba della democrazia in questo senso, cioè non permetterà a persone capaci, preparate, con reali possibilità di incidere sull'andamento della politica nazionale anche in ambito economico, perché devono passare i fedeli. Le persone magari inespressive, incapaci di dare contenuti utili al bene comune, queste persone non hanno nessuna capacità tranne quella di rispondere sì al capo. Questa è l'Italia che emerge dalla legge elettorale, e quella cupola di accordisti di cui parlavate ha l'obiettivo di controllare davvero sì, ma se non prendono i voti vanno per stracci, come si dice a Roma. Sarà più difficile, come dice Oscar, ci sono i meccanismi, li abbiamo criticati, che riducono un po' la rappresentanza, ma se non prendono i voti non vanno da nessuna parte. Capito, questo è, capisco quello che dici, ma non è vero che è tutto chiuso, il gioco non è chiuso, ognuno di noi ha la possibilità di contare su quel gioco. Posso però rispondere agli ascoltatori che continuano a dirmi: Giannino, tu devi dire però che hai sbagliato tutto, perché bastava vincere il 4 dicembre. Guarda, scusate, la riforma della Costituzione con la legge elettorale, piantatela di mischiare l'olio e il vino, perché se vi hanno messo in testa questa specie di mantra per cui piove e perché gli italiani hanno sbagliato il 4 dicembre, scusate, non so che cosa dirvi, perché mi parrebbe inutile sprecare tempo per convincersi dell'illogicità. Siete liberi di pensarlo, ma non c'entra niente con la riforma elettorale, niente. Però vabbè. Qualcuno dice: ma come, Giannino, avete criticato anche l'Italicum? Ma sì, perché ci sono tre leggi in perfetta continuità fatte dalla politica. Bravo. In questi anni, il Porcellum, l'Italicum, ci mettiamo pure il Tedeschellum, non ci siamo fatti mancare nulla, è questa, che hanno un principio: depotenziare il potere di controllo degli elettori. Così, è così. Sugli eletti. Andrea da Firenze? No, ancora là, ha parlato, scusa, se c'è un'altra telefonata la mandiamo in linea subito. Chi è? Ditemi. Matteo, vai Matteo, da dove chiami? Buongiorno da Pordenone. Cosa pensi? È che cerca di essere meno apocalittico oggi, siamo tutti pessimisti, dai. No, mi fate diventare punto, moderato. Il punto sarà per l'Italia, importante sarà soprattutto quando scadrà il mandato di Mario Draghi. Se ci presentiamo con un governo, se ci presentiamo con un governo che non riuscirà di sicuro a imporsi a livello europeo, a livello italiano, sarà veramente il commissariamento. No, il commissariamento non ci sarà più, saranno che ci guardano benevolmente tornare alla curva degli spread, alla gente che urlerà dicendo che è colpa della Germania, perché come noto il debito pubblico l'hanno fatto i tedeschi, quello nostro, e come noto la produttività che prendiamo da 25 anni è colpa sempre degli altri. Però succederà quello, hai proprio ragione. Però naturalmente questa è una cosa che non si può pretendere dalla politica italiana, che in questi anni sul tema delle colpa degli altri è uguale, dalla destra alla sinistra è uguale, la canzoncina è colpa degli altri, l'hanno ripetuta tutti, altro segno del fatto che poi sono molto più analoghi di quanto non recitino la diversità di fronte ai propri corpi elettorali. Altra questione dell'anomalia, perché in Francia mica Mélenchon è uguale alla Le Pen. Tanto allora, per essere chiari, leggiamo un po' noi di messaggi. Carlo da Treviso: a me piace moltissimo questa legge elettorale, mi piacciono i suoi meravigliosi effetti che definirei uninominali, governeranno i non pentastellati e gli altri perdono, punto. Vabbè, infatti basta dirlo che le leggi elettorali servono a un intento dichiarato fatte a tavolino da chi pensa di utilizzarle per vincere. Beh, mi pare il principio di una buona legge elettorale, no? Gli interessi generali. Questo è per me, sei sotto LSD, immagino con 2M, perché così va detto in effetti, il 51% ai 5 Stelle e il 49% alla Meloni. Voi vorrei vedere nascosto l'effetto che fa. Sì, ma non è che devi scherzare, cioè se gli italiani vogliono votare al 90% per la Meloni, io accetto questo. Se vogliono votare al 99% per Renzi, accetterò che voti Renzi. È banale, però sembra che in questo paese sia tutto difficile. Giovanni da Caserta. Pronto, mi sente? Sì. Buongiorno, salve, scusi, grazie per l'opportunità. Bella voce squillante, vai. Ah, sì, stavo entrando nella reggia di Caserta per fare un po' di allenamento. Ho detto fammi un dentro attimo la reggia? Sì, bellissima giornata, è veramente una bella giornata. Niente, vai. Un po' deluso da ieri sera per come sono andate le cose. Niente, guardi, io volevo prima di tutto rispondere alla signora Meloni, che fa politica da 25 anni, che però, diciamo che per una che ha votato la legge Fornero e che mio padre, diciamo, sta subendo gli effetti, quindi diciamo per tutto il rispetto, con tutto il rispetto per, la, per una donna che fa politica in carriera da 25 anni, vabbè, io mi trarrei un po' di dubbi, quindi mi porrei delle domande. Quindi uno che ha governato con Salvini, con Berlusconi e ci ha regalato la legge Fornero, quindi non penso che ci si possa fidare. Detto questo, ieri sera abbiamo scoperto una cosa molto importante. Io premetto che non sono un estimatore dei Movimento 5 Stelle, io ho votato sempre diciamo il Partito Democratico, però ieri sera abbiamo avuto la conferma, la certezza che in Italia ci sono due forze politiche, veramente. C'è un Movimento 5 Stelle e il Partito Unico. Ieri sera tutti coalizzati, tutti quanti, Brunetta, ho sentito tutti i discorsi in aula che hanno fatto, Brunetta non ci piace la legge però la votiamo, quell'altro Salvini che va in giro con le felpe non ci piace però la votano. Abbiamo semplicemente capito ieri sera, gli italiani si devono svegliare su questa cosa. Però abbiamo appena sentito la Meloni che è contro, non è che tutti, cioè perché bisogna dare una visione apocalittica, non lo so. Abbiamo appena visto che ci sono Bersani contro, la Meloni contro, lei può scegliere quello che vuole, però questo solo critico il suo intervento, il resto è giusto ed è una perfetta e legittima opinione. Oscar. L'unico addendum che fa il cattivo minoritario, un gattaccio per il quale se si ammala lo Stato non paga i dipendenti pubblici i giorni di congedo pagati, perché noi gli altri vedi siamo milioni anche per questo, però detto questo è che il non detto mio arriva anche ai 5 Stelle, perché in realtà i due Renzi e Berlusconi che si mettono d'accordo per regolare i propri conti e tenersi le mani libere su come decidere, e la libertà di cui parla Luca c'è teorica, ma in pratica sappiamo nei sondaggi che finirà secondo quello che loro pensano, ci saranno delle sorprese, ma insomma il grande corpo è questo. Io mi spingo, la mia cattiveria, a dire che c'è un terzo addendo, perché fanno un favore non dichiarato e che in quanto tale non viene accolto né c'è alcun ringraziamento anche a Grillo, che in realtà ha sempre pensato che i 5 Stelle è meglio che non governino, perché così si continua solo a fare l'opposizione, e non una mia illazione, ci sono anche qualche conferme anni fa che l'ha sempre pensato, e quindi come vedete c'è anche ironia della sorte questa cosa. Io la dico rispettando tutti quelli che votano 5 Stelle pensando che sia un'alternativa di governo, ma io ho sempre avuto il dubbio, e c'è qualche dichiarazione nel passato di Grillo che lo conferma pienamente, che tutto sommato meglio stare all'opposizione che poi provarsi davvero a governare, perché è una funzione democratica quella di drenare Hai l'estremismo. Quindi un po' alla romanesca, Fabrizio da Roma. Ma non dico pagina. Pagina. Eccoci. Dai un po' di lezioni di romanofonia, Fabrizio. No. Dunque, io volevo solamente brevemente fare un piccolo inciso. Cioè, se nel 2013 questo partito dei grillini, invece di isolarsi nel loro splendido isolazionismo, dire solo onestà, non trattiamo con nessuno su nessuna questione. Seguiva Bersani? Sì, no, questa mania dell'anti-accordo visto sempre come un inciucio, quando la politica è solo accordo. La politica è fatta ma di da questa accordi. Premessa, se avessero fatto, cioè si fossero messi d'accordo con Bersani, sì, secondo lei... fossero messi d'accordo subito nel 2013 avrebbero trovato un sistema elettorale in modo da non poter dire siete intervenuti alla fine, avete falsato e questo ha a che fare però con la volontà forse di non voler governare se non da soli e mai, ecco, quindi questo è un altro dubbio che mi rafforza nel pensiero. Posso dire come ieri ho rivolto il mio pensiero, ed è uno scandalo lasciare i disabili e 3,3 milioni di italiani che si occupano dei disabili nelle famiglie senza i sostegni necessari, quindi questa è una tragedia vera, e forse passa la legge al Senato e non c'è un euro dentro, per essere chiari, che è una roba scandalosa. Io voglio dire oggi, spezzo una lancia fuori Paolo Mieli, l'unico a ricordare in prima pagina all'Italia la vergogna assoluta di essersi fatta comprare dal Qatar, anti ebreo, antisionista e soprattutto islamista, comprato soldi alla mano per sostenere all'UNESCO, e capisco invece Israele e gli Stati Uniti che se ne vanno. Gli islamisti anti-ebraici alla testa dell'UNESCO perché ci siamo fatti pagare è una vergogna della politica estera. Anch'io il mio pensierino, Cesare Battisti ha detto nell'ambasciata italiana studiavano come prendermi. Bene, santa ambasciata italiana. Vogliono impedirmi di vedere mio figlio a 4 anni, se è stato condannato per omicidio non fare questo pianto. Ciao, a domani. Cane e gatto, amore e odio.